Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di arte moderna con due grandi artisti. Il primo è italiano ed è Giorgio De Chirico, e proprio Giorgio De Chirico si intitola il libro che vi presento. Il sottotitolo è Le città del silenzio, architettura, memoria e profezia di Vincenzo Trione, che è un studioso napoletano. Il libro è pubblicato da Schirà, 176 pagine, 19 euro. Il libro, come spiega il sottotitolo, è tutto giocato sul tema della città e del rapporto che questo tema ebbe sull'attività del pittore. E quindi i tre capitoli nei quali si divide il libro si intitolano appunto La città vista, La città dipinta e La città costruita. La città vista è il capitolo che riguarda tutte le città che ebbero un'influenza particolare sulla carriera di De Chirico: Monaco, Roma, Firenze, Torino, Parigi, Ferrara e New York. E non stupisce l'importanza del tema della città, perché, scrive l'autore, De Chirico fu appunto inventore di città impossibili, di patrie immaginarie, di luoghi assurdi. E sentiamo quindi dall'autore, da Vincenzo Trione, che ruolo ha svolto questo tema nella elaborazione della poetica del pittore. Buongiorno a Vincenzo Trione. Buongiorno, dottor Carrubba. Il suo libro su De Chirico è un'esplorazione sul tema della città. A un certo punto lei scrive all'inizio del secondo capitolo: la seduzione poetica nasce dalle città. Ecco, che ruolo svolse quindi la città nell'ispirazione di De Chirico? Ma la città è una sorta di filo rosso che ha attraversato tutto il lavoro pittorico e la riflessione teorica di De Chirico. In fondo, come De Chirico stesso afferma, la metafisica nasce dall'osservazione dei luoghi e delle città reali. A questa osservazione De Chirico è rimasto legato nel corso del suo itinerario, salve una breve parentesi che ha coinciso con i lavori di ritrattistica. I motivi urbani sono stati un po' un filo rosso, un motivo ricorrente di tutto quanto il suo itinerario, dagli anni 10 fino agli anni 70. Parlando in particolare di Ferrara, lei scrive queste parole: l'immobilità ferrarese non è chiusa in se stessa, nasconde una lieve follia attutita da un'umidità che sottopone i muri delle case uno stillicidio continuo. Parla di ossessioni, parla di una città chiusa e delirante, parla di una città in cui il viandante si smarrisce, non sa orientarsi, e la sensazione di passeggiare in uno scenario lunare. In qualche modo sembra una definizione della metafisica. Esattamente, è abbastanza sorprendente come De Chirico, parlando di luoghi diversi, dalla Grecia fino appunto a Ferrara, da Torino fino a Parigi, per arrivare a New York, passando per Monaco di Baviera, l'arsenale di aggettivi a cui De Chirico si richiama sia sostanzialmente analogo. Parlando di Ferrara, De Chirico sta tracciando le caratteristiche dell'estetica metafisica, ovvero descrive una città che è piatta, omogenea, rigorosa, in cui tuttavia il centro, esattamente come nell'utopia urbana di Rossetti, viene spostato rispetto all'asse principale della città. È un luogo, e De Chirico quando parla di Ferrara in fondo descrive un luogo che è rigoroso, armonioso, ma attraversato da un senso di pericolo e di rischio. È come, lui dice, se qualcosa stesse lì per accadere e per incrinare l'armonia e l'equilibrio. Poi c'è anche una metafisica realizzata, una metafisica costruita. Lei per esempio parla di Milano come un esempio di città che nel primo dopoguerra si dà, attraverso l'opera di molti grandi architetti, tra cui Muzio, un aspetto metafisico, ma si potrebbe pensare anche a New York, a Manhattan. Esattamente, questo è un po' un paradosso. De Chirico è stato tra gli autori che ha usato di più l'architettura, e suo malgrado è diventato un modello per gli architetti. In fondo De Chirico non ha mai lavorato insieme con gli architetti, si è sempre considerato, come egli stesso amava definirsi, un pictor optimus, lontano dal confondersi con altri linguaggi. Eppure proprio lui, che è lontano da Mondrian e da altri protagonisti della grande arte europea dei primi anni del Novecento, diventa un modello imprescindibile per la costruzione delle città che nasceranno a partire dagli anni 30, per le architetture che si svilupperanno a partire dagli anni 30. Ovviamente Milano e i modelli del razionalismo guarderanno molto all'architettura dei chirichiani, in modo particolare al sistema di archi e colonne. Lei appunto citava Muzio, ma si potrebbero citare anche Portaluppi e poi ovviamente anche Terragni, ma De Chirico diventerà un modello non solo per questo tipo di architettura, ma anche per quella che nascerà dal razionalismo italiano per diventare un po' un gioco, uno sberleffo, che sarà il postmodern. In entrambi i casi però è come se anche il gioco inatteso di De Chirico non fosse mai colto dagli architetti. Gli architetti si soffermano prevalentemente sulla superficie delle opere di De Chirico. E infatti il suo libro si conclude con un cenno all'architettura contemporanea, in particolare ad alcuni architetti. Sì, perché ancora una volta, a suo malgrado, De Chirico assiste a una trasmigrazione iconografica di alcuni suoi motivi che passano dai quadri alle architetture per arrivare, cosa abbastanza paradossale, alla piazza d'Italia di New Orleans realizzata da Charles Moore o addirittura ad alcune sperimentazioni più recenti di Massimiliano Fuxas. Probabilmente se De Chirico avesse visto questi esercizi architettonici avrebbe provato quasi un disgusto e un fastidio e non si sarebbe riconosciuto in questo imbarbarimento che invece il suo linguaggio altero e insieme contaminato aveva proposto. Ecco, a proposito di contaminazione, lei sottolinea l'aspetto legato all'evidente matrice cinematografica dell'opera di De Chirico. Sì, questa in realtà è una suggestione che nasce dalla letteratura. Uno dei grandi padri della fantascienza contemporanea, che è James Ballard, in un saggio dedicato alla pittura del Novecento fa un riferimento, secondo me, di grande acume, dove ricorda che De Chirico ha cinematizzato la pittura. Beh, se ci pensiamo, in realtà, nonostante alcune affermazioni conservatrici di De Chirico, ci troviamo di fronte a delle opere in cui vengono compiuti degli smontaggi e dei montaggi di chiara matrice cinematografica. In fondo De Chirico si serve di pezzi e di frammenti provenienti da mondi diversi e li assembla all'interno della stessa opera. In fondo fa quello che fa il montaggio nel cinema. Una volta uno studioso disse: soltanto il cinema che ci consente in un istante di passare da un mondo all'altro, da una geografia all'altra, appunto attraverso il montaggio. È quello che succede esattamente anche nei quadri di De Chirico. Bene, grazie a Vincenzo Trione, autore di Giorgio De Chirico. Grazie di cuore a lei. Il confettino. Vi presento a questo punto, forse un po' insolito nella nostra scaletta, un libro dedicato a Giorgio De Chirico. Perché mettere tutto in piazza? È un libro di Paolo Marabotto pubblicato da Lapis Edizioni, 12 pagine, 6 euro. Non è un libro recentissimo, ma si trova ancora facilmente nelle librerie, nei bookshop dei musei, ed è un libro interessante perché è un libro gioco con fili e graffette che serve a far scoprire l'aspetto ironico e gioioso di questo grande pittore anche ai più piccini. Ai genitori che vogliono accostarsi all'opera di De Chirico con un taglio un po' insolito, invece segnalo un fumetto, o come si dice adesso, una graphic novel, è di Sebastiano Vilella, si intitola Interno metafisico con biscotti ed è pubblicato da Coconino Press. Dicevo, quindi, un libro a fumetti che parte da una famosa pagina di De Chirico che è citata ampiamente anche nel libro Titrione, quella che descrive la sorta di rivelazione che De Chirico ebbe in un chiaro pomeriggio d'autunno, come spiega lui, a Piazza Santa Croce nel 1910. L'autore vuole riflettere, spiega in una nota che accompagna il testo e le illustrazioni, vuole riflettere sull'enigma delle invenzioni di De Chirico, tanto attuale oggi, nel senso di profonda inquietudine, scrive, in un pubblico stravolto e confuso dal caos delle città moderne. Vedete che ritorna proprio il tema delle città. E per riuscire in questo intento, Vilella non fa una biografia a fumetti, ma elabora un racconto negli anni giovanili del pittore, un racconto dominato come eroe negativo, come controfigura dell'artista, da una sorta di detective o sedicente tale che alimenta le morbose inquietudini di De Chirico. A lui, che gli chiede perché mai vagoli nelle piazze deserte, De Chirico risponde così nel libro che vi sto presentando. Lei non mi crederà, signore, ma ciò che io cerco trascende ogni fisicità. È pura atmosfera. Talvolta la luce meridiana rende vitali persino le strade deserte, le facciate dei palazzi assopiti, le statue. Talvolta le ombre che queste cose proiettano nascondono il senso di tutte le domande che ci poniamo continuamente e a cui non sappiamo dare risposte. E da questo rapporto nasce un vero e proprio racconto noir che ci fa accostare alla poetica metafisica di De Chirico e alla sua formazione fino agli anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Eccoci al secondo artista dell'arte moderna, che è Eduardo Hopper, un autore che si può certamente richiamare a De Chirico per il ruolo che svolge nelle sue pitture il tema dell'architettura e soprattutto per l'isolamento quasi monumentale, direi quasi metafisico, delle figure che risultano del tutto astratte dall'ambiente circostante. Su Hopper, come sapete, è in corso una grande mostra a Palazzo Reale a Milano, che sarà aperta fino al 24 gennaio del 2010. E vi segnalo in questa occasione una esaustiva biografia che ha pubblicato Joanne Levy, scritta da una studiosa di questo grande pittore americano, una professoressa di storia dell'arte a New York, Gail Levin, e si intitola Edward Hopper, biografia intima, 764 pagine, 35 euro, tradotto da Irene Inserra e Marcella Mancini. Come avete sentito dal numero delle pagine, è un'opera ponderosa che gli appassionati di Hopper apprezzeranno, perché certamente permette di conoscere nei minimi dettagli la vita di Hopper, che viene ricostruita indirettamente attraverso le carte di sua moglie, Jo Hopper, che contribuì efficacemente a ostacolare molto il rapporto con la stampa del pittore e a creare anche questo mito del pittore isolato e solitario. Questi diari, tra l'altro, non erano particolarmente apprezzati dal marito, che con la moglie ebbe sempre dei rapporti molto altalenanti, in certi momenti anche violenti. Furono rapporti burrascosi con questa signora, con la quale peraltro condivideva una inclinazione politica piuttosto conservatrice e anti-rooseveltiana. Anzi, Hopper a un certo punto rinuncia, leggiamo nel libro, a una commessa pubblica proprio per protestare contro i finanziamenti pubblici per l'arte che si avviavano in quegli anni negli Stati Uniti. Ma insomma, da questo libro esce un diario minuzioso, forse anche un po' troppo in certi momenti, ma sicuramente completo, della vita del pittore e anche delle sue ansie, che contribuiscono a spiegare la sua arte, o meglio l'inquietudine che essa produce o che da essa traluce. Troviamo un catalogo di immagini molto ampio qui della sua opera. Molte di questi quadri vengono illustrate, vengono spiegate in qualche misura dall'autrice, per esempio con le parole che adesso vi presento, che si riferiscono nei quadri più famosi di Edward Hopper, Early Sunday Morning. Early Sunday Morning occupa un posto particolare tanto nella carriera di Hopper quanto nell'arte dell'epoca. La luce del sole riscalda un vecchio edificio a schiera a due piani, allungato sotto una striscia di cielo azzurro omogeneo, la cui orizzontalità è interrotta soltanto da un rettangolo scuro, disegnato nell'angolo superiore destro della composizione. Questa forma verticale isolata suggerisce la presenza di un'altra dimensione, oltre a quella a misura d'uomo, rappresentata in primo piano. Con mezzi minimali, Hopper ha raffigurato un grattacielo. Quasi un ripensamento, colto solo di sfuggita, si intromette nel paesaggio urbano senza tuttavia evocare in alcun modo la grandeur delle nuove torri che popolavano le opere di Georgia O'Keeffe e Charles Schiller. Pur accettando la necessità di una nuova arte americana che doveva essere svezzata dalla madre francese, come aveva scritto in un articolo, e convinto che l'architettura statunitense stesse sviluppando uno stile originale, Hopper in genere non amava i grattacieli, le strutture industriali e gli aeroplani che comparivano nei dipinti di contemporanei quali Schiller, La O'Keeffe, Joseph Stella o Elsie Driggs. Solo di rado raffigurò i grattacieli e quando lo fece li ridusse a frammenti appena percepiti o a intrusi nel paesaggio. Lo sguardo spesso ironico con cui Hopper coglie le manifestazioni della modernità è emblematico del suo atteggiamento ambivalente nei confronti dei cambiamenti della società del Novecento. Questo profondo straniamento dalla vita contemporanea è ciò che rende la sua arte così caratteristicamente moderna. E a proposito di capolavori di Edward Hopper, ho chiesto a Marco Carminati un consiglio per la visita alla Mostra di Milano. Ciao Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti la Mostra di Milano è molto importante perché per la prima volta, credo in Italia, questo grande pittore americano, molto famoso, le sue immagini sono nell'immaginario collettivo, viene però esposto accanto ai suoi disegni, cioè a quella che era la fabbrica delle sue idee. Questi dipinti, che a noi appaiono in qualche modo presi di getto, osservando i panorami americani, osservando le sere americane, osservando gli interni americani, in realtà sono il frutto di un incredibile lavorio di preparazione, perché appunto Hopper tenne quasi nascosti tutti i disegni che gli erano serviti per raggiungere i famosi dipinti, e questi disegni vennero passati poi alla moglie, e la moglie li lasciò in blocco al Whitney Museum, dalla quale appunto vengono gran parte delle opere esposte a Milano. Bene, in questi disegni si vede che Hopper veramente risale alla tradizione rinascimentale. Per le figure studia nei dettagli più di una volta le figure, la testa, le mani, i panneggi, come potevano fare i pittori antichi. Le composizioni anche di paesaggio vengono più volte riprese con questa matita grassa, tra l'altro era un abilissimo disegnatore, per vedere e cogliere già con il disegno preparatorio, quindi con la matita, le varie atmosfere urbane. E poi c'è un altro aspetto molto singolare, che da un certo punto in avanti della sua carriera egli tenne un diario dove annotò in piccoli schizzi le composizioni che realizzava, quindi sono una piccola pinacoteca portatile. E ancora, cosa curiosa e molto legata alla tradizione rinascimentale, che ci stupisce leggendo e osservando, il fatto che tenesse nota dei prezzi di vendita dei suoi dipinti. E noi abbiamo veramente una sorta di ragioneria di tutta la produzione di Hopper, perché appunto in questo taccuino, insieme alle idee figurative, annotò i prezzi dei dipinti, che a partire dalla fine degli anni 20 diventarono la sua principale fonte di reddito, perché dopo appunto queste prime vendite di successo abbandonò la carriera di illustratore, e questa è la ragione per cui noi adesso ci accorgiamo che dietro questi quadri c'è questo grande lavorio tecnico tipico di un illustratore, che appunto ha realizzato queste icone del mondo americano, del mondo occidentale, così significative ai nostri occhi, con un lavorio uguale e tipico dei maestri del Rinascimento. Un giudizio scritto su Hopper è quello del poeta e saggista francese Yves Bonnefoy. Edoardo Hopper, la fotosintesi dell'essere, pubblicato da Abscondita, tradotto da Caterina Medici, 88 pagine, 12 euro. Qui l'autore, che è un poeta e saggista francese, riprende un tema accennato già nel tema della Levine, ossia l'influenza dell'educazione puritano, dal peso della quale Hopper si sarebbe liberato in occasione dei suoi viaggi in Francia, soprattutto il primo. Hopper arrivò per la prima volta in Francia nel 1906 a 24 anni, e qui in qualche modo Hopper scopre la luce e si libera, scrive Bonnefoy, dalle emanazioni solforose delle prime opere. Sentiamo come evolverà l'arte di Hopper in questa sintesi breve ma efficace del fascino inimitabile che i suoi quadri continuano a esercitare. Questa pittura di situazioni esistenziali all'interno di una società prevalentemente urbana, elaborate dall'artista con grandi difficoltà al termine di lunghe meditazioni nei suoi inverni a New York, questa pittura cosa mentale, ammesso che ve ne sia una, non è in definitiva così diversa nei suoi intenti e nei suoi valori dagli altri paesaggi del primo periodo. Viene sempre affermato il primato di un assoluto dell'istante, di un'unità della vita su comportamenti che tendono a frammentarli, salvo pensare ora che questo assoluto è inaccessibile e conduce soltanto a degli istanti d'angoscia o di felicità illusoria. L'opera di Hopper è sempre un'esperienza dell'essere. E infine troviamo Hopper come personaggio letterario in un libretto di Aldo Nove, un romanziere italiano. Si parla troppo di silenzio, pubblicato da Schirà, 78 pagine, 14 euro. Questa è la cronaca fantastica di un incontro tra Hopper e un giovane Raymond Carver, lo scrittore americano tra i più celebrati del Novecento, la cui opera in qualche tratto si può avvicinare anche a certi elementi espressivi della pittura di Hopper. Il pittore è in giro con sua moglie per gli Stati Uniti, come spesso faceva, capita in un angolo remoto dell'America e incontra casualmente un ragazzo col quale farà simpatia, che lo accompagnerà a pesca. E il dialogo con il giovane Carver diventa nel libro un modo per spiegare la poetica di Hopper e per rafforzare alcune ipotesi o alcune ispirazioni che già frullano nella mente del romanziere. Sentiamo questo brano con Hopper che parte proprio dal viaggio a Parigi, quello di cui abbiamo appena parlato. Ho amato la corrente di quei pittori che alla fine del secolo scorso, a Parigi, hanno rotto con le convenzioni per riprendere le cose per come realmente si vedono. Io penso che quello che disegno non sia diverso da quello che in certi posti e in certi luoghi si vede. Dipingo l'America come la vedo, però... Però? Ci metto qualcosa di mio. Il mio modo di sentire. Il pittore sceglie sempre tutto. Almeno dopo che sono stati inventati la fotografia e il cinema, non possiamo pensare di prendere una porzione di realtà senza che decidiamo noi cosa nello spazio decidiamo di ritrarre. C'è stato un tempo in cui si facevano i ritratti per un solo motivo. A seconda del periodo e delle convenzioni artistiche, quel ritratto era il simulacro della persona. Doveva proprio rappresentarla invece sua. Oggi siamo molto più liberi, siamo svincolati da quello che dobbiamo raccontare. In realtà non dobbiamo raccontare nulla di preciso. E questo può anche essere una forma di schiavitù, o almeno di grande dispersione. Un po' come tutta la libertà che abbiamo raggiunto nella nostra era, spesso non sappiamo che farcene. Allora si ritorna all'individuo, e invece di imitare un modo di fare comune, chi ha qualcosa da dire ci mette del suo. Ma è una priorità che, scavando a fondo, diventa di tutti, esattamente come il sole. È lì per farci vedere le cose, ma nessuno le vede allo stesso modo. Anche se però poi ce le raccontiamo e dobbiamo tutti attingere a qualcosa in comune. È quello che penso anch'io, una cosa di questo genere. All'inizio mi sono un po' perso con le storie di fantascienza. Poi mi sono accorto che è straordinario già quello che ci succede tutti i giorni. Non è la storia in sé che credo possa interessare a qualcuno che non sia me. È quello che ho provato, quel modo di deformare le cose che hanno i bambini, che ingigantiscono e caricano di segni tutto. E di Carver Einaudi ha appena pubblicato Vuoi star zitta per favore, 242 pagine, 17 euro, e Principianti, 290 pagine, 19 euro. Il primo è una raccolta di novelle, il secondo è la versione integrale di un'altra molto celebre raccolta di racconti, di cosa parliamo quando parliamo d'amore, che fu pubblicata nel 1981 in una versione drasticamente ridotta e addirittura modificata dall'editore. Carver soffrì molto per questo trattamento, ma dovete accettarlo perché voleva assolutamente pubblicare il libro. Ecco, questo Principianti vi offre la versione che il grande scrittore aveva pensato di questo che rimane uno dei suoi capolavori. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.